Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Cominciamo a proporvi qualche puntata speciale in vista della pausa natalizia. Lo sapete tutti molto bene perché questa è una prassi molto frequente da qualche tempo a questa parte. Qualunque canale televisivo scegliamo ci propone trasmissioni culinarie che ci piacciono anche molto, peraltro. E allora noi ci siamo detti, non siamo mica da meno, volevamo fare anche noi un programma un po' diverso da quelli che vediamo e sentiamo, però anche noi abbiamo deciso di occuparci a Salva Danaio di cucina e di ricette, volendo però essere un po' originali. Infatti oggi utilizzeremo degli ingredienti forse non troppo digeribili o commestibili, ma in qualche maniera non mancheremo di divertirvi ed attirarvi. Più che altro quello che facciamo stamattina noi è un lavoro che copiamo senza ritegno e ne sono davvero contenta, perché vi presentiamo un libro che si intitola Cotti a puntino, le ricette per investire con gli avanzi e non farsi bollire dalla crisi. Collegato nei nostri studi di Roma, di Radio 24, c'è Marco Fratini, che saluto. Marco, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno, è un piacere e sempre una grande emozione. E per la verità bentornato, infatti, perché adesso rinfrescherò anche ai nostri ascoltatori la memoria e ricorderò, a parte la tua lunga carriera giornalistica, nonostante la giovanissima età, ma vorrò anche ricordare tutte le altre cose che hai scritto in questi anni, cogliendo puntualmente tutti gli aspetti di questa crisi che ci hanno preoccupato anche non poco in certi momenti. Ricordo che Marco Fratini, che ora è il braccio destro di Enrico Mentana, posso dirlo, all'assetto. Però so che ti stima molto. Sinistro, cioè, è esagerato. Caporedattore dell'Economia al TG della 7, oltre che nostro caro amico, ha lavorato in Rai, alla Sole 24 Ore con me, alla TV del Sole 24 Ore, e in passato soprattutto ha scritto dal 2008 in avanti una trilogia molto interessante insieme ad un altro autore che salutiamo. Non voglio fare la fine di Stieg Larsson, però anche perché adesso hai cambiato percorso, no? Nel senso che ti sei buttato sul versante culinario, per cui hai abbandonato i vecchi tre temi. Io ricordo i titoli degli altri libri: Vaffanbanca nel 2008, un grande successo perché effettivamente il tuo libro uscì in concomitanza con la bancarotta di Lehman Brothers, se lo non mi ricordo. Giorno, ecco, e con Lorenzo Marconi, l'altro autore, insomma, condividevo questa fortuna, che poi in realtà era una sfortuna mondiale di cui ancora adesso portiamo le ferite, probabilmente. Ecco, appunto, dopo Vaffanbanca uscì Vaffancrisi, e terzo libro di questo gruppo, di questa trilogia, appunto, Mutande di Ghisa, e che è tutto un programma anche questo. Allora Marco, però questa volta adesso ti faccio fare anche una prova, ti faccio raccontare anche la borsa, perché voglio vedere se ti ricordi ancora come si fa, visto che adesso fai più che altro approfondimenti per il TG della 7, ma ti faccio raccontare anche la seduta di borsa, perché è una cosa con la quale ci siamo divertiti molto noi in passato, quando io condividevo il tavolo con Marco. Voglio però chiederti, ti sei messo ai fornelli anche tu con questo nuovo libro? Hai combinato degli ingredienti particolari? Ma guarda, assolutamente, mi sono divertito. Io ho avuto sempre l'impressione che uno dei percorsi più importanti per cercare di spiegarci quello che ci accade intorno, e ce ne sono accadute veramente tante ultimamente, debba partire dal linguaggio. Allora mi vedevo, come dire, sommerso, no, da varie pentole, cucine e fornelli. Ho detto, ma perché non utilizzare proprio quel linguaggio per cercare proprio terra a terra di spiegare a chi ci sta intorno quello che effettivamente ci sta capitando? Cioè, ho usato la metafora più semplice, se vuoi è stata un po' un'idea di marketing. Oh, però io ci ho creduto davvero, ecco, e soprattutto volevo... credo ai polpettoni dell'economia, che secondo me, insomma, non sono più così digeribili, bisogna spiegarsi bene soprattutto quando gli avanzi che utilizziamo sono anche quelli politici. E qua chiudo immediatamente la parentesi, perché sennò scateno gli ascoltatori, ecco. No, tra l'altro c'è un ascoltatore che già ci scrive, Roberto da Genova ci scrive: molti piatti tipici genovesi utilizzano avanzi, verdure ripiene, cima polpettone. Roberto, non facciamo in realtà ricette vere e proprie questa mattina, facciamo delle ricette particolari utilizzando gli avanzi della finanza, una bella impresa di questi tempi, ma a Marco Fratini la fantasia non manca, per cui adesso scopriremo che cosa ha scritto, appunto, e come ha combinato le sue ricette. Volevo ricordare agli ascoltatori che naturalmente stamattina, Marco, possono fare, se vogliono, una chiacchierata con te all'800 24 00 24. Come li possiamo coinvolgere? Possiamo chiedere loro che cosa cosa li ha fatti più bollire di rabbia quest'anno? Credo che sia la domanda più appropriata per i tempi. Cosa vi tiene di più sui carboni ardenti, utilizzando anche gli strumenti della cucina? E se volesse... I più ribolliti, secondo voi, in circolazione? Quali sono? non provocarci, Marco. Ma come? Dai, ce n'è uno che è proprio ribollito alla grande. Vabbè, adesso dopo lo sveliamo questo mistero non tanto, alla fine del nostro programma. Ma sì, c'ho gli occhi un po' fessure. Esatto, frutto di qualche tiraggio di troppo. È lì altro che fillerina. Va bene. Chiusa. Allora, no, un'altra domanda che voglio fare agli ascoltatori: se così vi venisse in mente di associare un cibo, un alimento, una pietanza a un fatto economico degli ultimi 12 mesi, che cosa vi verrebbe in mente? Quindi stamattina voglio che sbizzarriate la vostra fantasia e la condividiate con noi. Il numero verde ve l'ho ricordato, ci potete scrivere anche al 349-238-6666, potete andare sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, potete anche scriverci delle mail se avete delle ricette un po' più ardite da condividere con noi, salvadanaio@radio24.it. Forse lì a Roma, Marco, nei vari monitor non ti hanno aperto la piattaforma per condividere con me la giornata di borsa. La giornata di borsa no, però vedo gli SMS che cominciano ad arrivare. Esatto, infatti. Allora, anche comunque, di vecchi amici. Senti, guarda, ti faccio sentire la sigletta che utilizziamo per raccontare cosa succede in giornata sui mercati finanziari. La campanella di Wall Street, questa, dell'apertura appunto delle contrattazioni americane, ma in realtà noi oggi monitoriamo a quest'ora, come sempre, cosa succede in Europa. Una giornata un po' piatta sui listini europei, Milano meno 0,18, Milano è stata un po' più volatile stamattina, ha cominciato con una partenza a meno 0,5 circa, poi ha ridotto quasi tutte le sue perdite, poi è ritornata a perdere circa un'ora e mezza fa un altro mezzo punto, adesso è ritornata su, meno 0,18, una giornatina un po' ad elastico, Marco, come potremmo definirla? Beh, così. No, è elastico secondo me fino alla fine dell'anno, peraltro bisogna ancora vedere i volumi, immagino che comincino ad essere bassi, sì. Ci sarà sicuramente dietro l'angolo la possibilità di qualche presa di beneficio, se io mi mettessi al posto di quelli che poi hanno guadagnato con gli ultimi rimbalzi, io uscirei. Ecco, bravo. Non ho dubbi. Diamo qualche indicazione anche pratica di comportamento, perché queste ricette che tu proponi nel tuo libro sono anche delle ricette scritte chiaramente con leggerezza, in maniera divertente, ma che in qualche modo danno anche dei suggerimenti su come comportarsi con questi eventi di crisi. Cominciamo con il grande protagonista degli ultimi mesi delle nostre giornate, Marco, lo spread. Poi faremo sentire come lo tratti nell'introduzione del libro, ma insomma è stato davvero il nostro calvario. Continuerà ad esserlo ancora a lungo questo termometro. Tu lo definisci in tanti modi nel tuo libro, raccogliendo un po' quelle che sono state tutte le definizioni che è stato dato a questo parametro negli ultimi mesi. Ma io innanzitutto inizierei a discuterne con le immagini e soprattutto con le memorie che abbiamo più fresche. No, qualcuno l'ha definito in queste ultime ore un imbroglio. Ecco, io non credo che sia un imbroglio. Credo però che sia in un certo senso, non voglio dire manovrabile, ma gestibile e anche controllabile. Poi non c'è dubbio, reagisce tempestivamente a certe stimolazioni precise, no? Per cui abbiamo visto la possibilità del rientro in campo del Cavaliere e lo spread chiaramente si è ripreso poi successivamente all'annuncio delle dimissioni di Monti, poi però è sceso puntualmente 10 punti quasi ogni giorno fino adesso, insomma siamo tornati su quella soglia del benessere, no? Indicata da Monti. L'impressione è che lo spread sia ormai un compagno di viaggio. Bisognerebbe poi spiegare che lo spread non è una misura così aleatoria, matematica, algebrica, un fantasma. Cioè noi paghiamo l'IMU, bisogna essere chiari, perché abbiamo talmente tanti interessi da pagare che non sappiamo più dove prendere i soldi. Mm-hmm. E quindi paghiamo l'IMU perché abbiamo avuto lo spread. Basterebbe questo, spiegarlo, aprire un inciso quando parliamo di spread perché la gente capisca che cos'è lo spread. Se c'è un lo spread, anno... ce l'abbiamo, certo, in tasca tutti i giorni. Esattamente. È uno zaino con cui dovremo convivere. Se un anno fa non fosse stato sui 575 punti, che è quel livello toccato appunto nel novembre del 2011, tra l'altro tu hai trovato anche un'originale coincidenza, Marco, 22 anni fa in quello stesso giorno cadeva il muro di Berlino. Sì, vabbè, di coincidenze ce ne sono tantissime. Per noi è caduto alla fine un muretto, perché non vorrei proprio storicamente fare paragoni perché sono improponibili, sia per la grandezza degli eventi, sia per la grandezza della storia. Noi abbiamo fatto cadere un muretto, era un muretto che probabilmente doveva cadere. Si potrebbe ragionare del fatto che lo spread sia in assoluto il più grande alleato di Mario Monti, su questo credo che ormai sia incontestabile che appena in questo paese si dice qualcosa, lo spread si muove, lo spread vota. Cioè, in realtà le elezioni, per quanto riguarda lo spread, le elezioni ci sono già state. Cioè, lo spread vota ci accompagnerà in questa campagna elettorale col suo nervosismo, magari con la sua tranquillità. Non c'è dubbio che qualcuno preme il bottone e decide di farlo quando pensa che sia giusto farlo. Dopodiché, quando si arriva a 575 punti, cioè, non è più una questione di spread, è una questione proprio di mancanza totale di credibilità a livello internazionale. Che abbiamo dovuto tentare di ripristinare in ogni modo, ci siamo riusciti, chiaramente, poi con tutti gli alti e bassi di questo anno che abbiamo visto. In realtà è il prossimo. E il prossimo sarà chissà ancora peggio. Ma statisticamente peggiore. Perché? Ma perché chiaramente la statistica, come noi tutti sappiamo, è una roba che si mangia fredda, direi quasi che è una vendetta sulla vita quotidiana, che però si consuma molto fredda circa sei mesi dopo, per cui tutto quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni, in questo ultimo trimestre, ne conosceremo gli effetti probabilmente nei prossimi sei mesi e quindi il prossimo anno. Io direi che statisticamente la cosa peggiore la vedremo dopo marzo del prossimo anno. Eppure forse proprio tu mi hai insegnato, quando lavoravamo insieme, che in realtà i mercati anticipano sempre con largo preavviso i fatti che verranno, in sostanza. Era così, era non c'è così. Dubbio, era anche così. Questa regola è cambiata. Ho qualche dubbio che possa essere ancora così, perché cioè, maglia permettendo, vediamo di svoltare un paio di giorni e poi forse comunque abbracciamo una storia che ogni giorno ha degli inediti, no? È qualcosa di molto diverso che chiaramente muta ogni giorno, cioè difficilmente quello a cui eravamo abituati a livello di regole può essere ancora una volta considerato in tutto e per tutto garantito. Dobbiamo abituarci a muoverci un po' di più ad assetto variabile. Poi certi mercati hanno dei punti fermi e non c'è dubbio che anticipano i movimenti economici, però io ti chiedo, quali movimenti economici? Che cosa succederà che loro possano anticipare il prossimo anno? Io ho ancora molti dubbi. Tra l'altro, questo è un esercizio che magari anche molte case di investimento facevano in passato e che adesso invece, nel quale non ci si cimenta più molto volentieri, no? Quello di fare previsioni, eccetera, perché effettivamente dietro l'angolo c'è sempre la sorpresa che scompagina un po' tutti. Ma io credo i che sia giusto, è una giusta presa di coscienza. E questa poi illusione dei soldi facili, no? Che si possa sempre programmare. Io credo che le case di investimento che hanno abbracciato bene o male questa visione, no? Un po' nuova di prudenza, di cautela, beh, insomma, abbiano fatto un passaggio secondo me necessario ma anche molto importante, vorrei dire un po' umano, credo un che po' questo un sia un bagnetto di umiltà, chiamiamolo anche così. Senti, ritorniamo. Dopodiché un po'... gli hedge fund hanno guadagnato quanto? 500 milioni di dollari puntando sul fatto che la Grecia migliorasse, no? Migliorasse il suo scenario E poi ritorniamo anche sul nostro paese, Marco, perché ci interessa capire quanto anche avessero puntato un anno fa non tanto sul fatto che il nostro paese continuasse a bollire per un po' finché portasse a casa determinati risultati politici ed economici, determinate riforme. Guarda, e quant'altro. Sono le prime due righe dell'introduzione. Allora aspetta, dica, la facciamo sentire subito questa introduzione. Aspettiamo. Non si comincia mai un pasto con il dolce, ma stavolta dovremo farlo per forza. Aprite la credenza e prendete il vasetto della Nutella. Se non c'è, andate a comprarla al super. Sull'etichetta degli ingredienti in inglese c'è scritto Hazelnut Spread Cream. Significa spalmabile. Il resto sta per crema e nocciole. Per mesi e mesi abbiamo avuto la notizia in cucina e invece ci è toccato scoprirla sui giornali o alla radio. Mentre, televisivamente parlando, il compito è stato ben più difficile. Lo spread, infatti, non ha un volto e non si sa bene dove abiti, altrimenti lo avremmo volentieri aspettato sotto casa. L'unica cosa certa è che si è spalmato sulle nostre vite. Meglio tardi che mai, si è capito che dietro lo spread ci sono i soldi, tanti, tantissimi, non certo noccioline, di tutti. Quindi non è una misura astratta, ma, concedendo gli onori a chi ama definirlo un termometro di credibilità e affidabilità, prevede una colonnina piena, anziché di mercurio, di occasioni perse. A Napoli, il botto vietato più famoso sotto l'albero del 2011 è stato chiamato O-Spread, 3 kg di polvere pirica da tirare giù un palazzo. E, verosimilmente, l'ha fatto. Ha tirato giù il palazzo, con salotto, tinello, tavolo e credenza. Mario Draghi l'ha definito un motore eccezionale per le riforme e questo farebbe pensare che lo spread per l'altro Mario, Monti, sia stato un grande alleato per realizzare cose che non sarebbero mai state fatte. È lo spread che ha unito l'Italia e, paradossalmente, i bicchieri della Nutella lo avevano previsto. Sorvolando sulla sfortuna che ci hanno portato i libri stile Evviva, limitiamoci a imparare qualche trucco su come si cucina con lo spread. A fuoco lento, coscienti che quello dolce si compra al super e combatte le crisi affettive, ma è il livello gestibile dell'altro che può battere la crisi economica e farci fare bella figura con gli ospiti. Marco, tu consideri nel tuo libro perché è follia. No, tra l'altro posso dire una roba, perché questo è una parentesi che faccio nella quale tu non c'entri molto, ma la questione della Nutella noi la stiamo affrontando in ogni puntata involontariamente. Ieri è uscita perché ne parlavamo con le associazioni dei consumatori. Sto preparando delle trasmissioni che andranno in onda sotto Natale e a Capodanno, e ogni tanto il concetto della Nutella, nostro malgrado, esce fuori. Stiamo facendo una grande pubblicità, ma anche se non ne ha bisogno. Vabbè, chiusa no, parentesi, non ne ha veramente bisogno, è dai. Tutto involontario. Detto questo, l'Italia doveva bollire ma non evaporare, scrivi tu nel sì, tuo libro. È tutto lì. E però, allora, sai che io paradossalmente l'ho considerato questo un messaggio positivo, nel senso che se ci tengono qua bolliti non è una certo. Situazione che ci piace molto, ma quantomeno non verremo cotti del tutto, lessati del tutto, anche se magari la mostarda che ci potranno spalmare addosso sarà la migliore del mondo. È una conclusione positiva quella che tu tiri o no? Guarda, la conclusione positiva forse è presto per tirarla, però è nei fatti, no? Quando ci avvicinavamo effettivamente al rischio massimo, si sono sempre fermati. E non c'è dubbio però che nel nostro caso, lo scorso anno, ma anche la prima parte di questo, in giro cose che rendevano ce n'erano veramente poche, cioè l'oro e veramente poco altro. Il BTP italiano ha garantito a chi doveva garantire grandi guadagni. Cioè con l'Italia c'è gente che ci ha guadagnato. Mettere sotto pressione noi significava guadagnare. Mettere sotto pressione la Spagna significava nell'immediato sicuramente guadagnare, ma vederla saltare, perché non c'è dubbio che la Spagna, così come altri paesi, ha le spalle molto molto meno larghe delle nostre. Quindi è stato, da questo punto di vista, una condivisione generalizzata di un driver che sul mercato funzionava e che faceva guadagnare. Poi piano piano si sono accorti che mettere sotto pressione noi, alla fine anche noi non ce la facevamo più. Dopodiché le famiglie, gli italiani, gli artigiani, le piccole e medie imprese, cioè lo spread lo hanno pagato. E volendo, tu parli di positività, io dico positività, ma non vedrò positività in questo paese fin quando i soldi che ci hanno fatto spendere per colpa dello spread, che sono andate nelle tasche di una certa finanza, sicuramente anglosassone, tornano indietro sotto forma, per esempio, di minori tasse. Minori tasse, cioè noi lo spread continuiamo a pagarlo, lo continueremo a pagare. Quando noi vediamo che quest'anno sono stati concessi il 41% di mutui in meno, ma di quale altra prova abbiamo bisogno che stiamo andando in una situazione veramente di grandissima difficoltà, che non è soltanto economica finanziaria, è una difficoltà umana. No, poi tra l'altro voglio dire, se non ti si dà il mutuo tu non compri casa e al limite rinvii questo investimento. Il problema più grosso è poi per quelle società che invece da un giorno all'altro si vedono tagliare i finanziamenti in banca e non sanno più come proseguire l'attività d'azienda, non riescono a pagare gli stipendi. Neanche i Castelletti riescono ad avere. Ecco. Dopodiché però usciamo per favore dal solito malinteso, no? L'evasione fiscale, le lotte, i baschi verdi, i blitz, Portofino, Cortina, sono serviti. La verità è che secondo me, parere mio personale, c'è una grandissima evasione fiscale, c'è un PIL parallelo, sì. Chiaramente quei 200 miliardi, no, che sfuggono ai controlli, e in questo momento non conviene smantellarlo. Perché grazie a questo stock che il paese va avanti. Guarda, ma lo sostengo anch'io. Ho molti dibattiti con molte persone su questo tema. Esatto. Ma è così. Allora, senti un po', cominciamo a coinvolgere i nostri ascoltatori. Sento Sergio da Genova, poi magari gli rispondiamo nella seconda parte del programma, perché già vedo un countdown che ci porta dritti al primo blocco pubblicitario. Sergio, buongiorno. Buongiorno a lei. Cotto a puntino anche lei? No, grazie a Dio, non mi sono mai fatto coinvolgere diciamo da microprestiti piuttosto che altre cose di questo genere. Niente, vi ringrazio per l'opportunità di dire una mini cosa di quello che secondo me ha contribuito a questa crisi. Innanzitutto l'economia gonfiata con tutte le proposte di vendita con micro e altri finanziamenti, ricondita alla fine, non contenti, praticamente con il rifinanziamento di tutti quei prestiti che le persone poi si sono ritrovati negli stipendi. E le dico, mi devo fermare qui, ho capito per questione di tempo, ma condivido ciò che il suo ospite sta dicendo, perché l'errore più grosso in questo momento, non sono un imprenditore, dunque ahimè non sono ho fortunato o sfortunato evasore, però l'errore più grosso che in questo momento si può fare è quello praticamente di aver tagliato, anche se non è giusto per tutto il mondo, la spesa di quei famosi 200 miliardi che si dice di soldi che girano in nero, perché è proprio aver bloccato completamente l'economia. Secondo me era più giusto invece, combattendo una lotta feroce contro l'evasore fiscale, però noi siamo in Italia e l'Italia purtroppo è fatta di tutte queste cose qua. Un bel tema quello che ha proposto prima Sergio da Genova, perché è un tema che così in apparenza fa scandalizzare tutti, perché tutti siamo indispettiti quando magari vediamo che il nostro vicino di casa fa un po' il furbo, porta a casa, insomma, fa degli acquisti magari senza scontrino, gli paga la metà, e tante volte siamo anche un po', come dire, solidali con quelle famiglie che devono andare dal dentista per rifare l'apparecchio ai denti di 3 figli, e chiaramente siccome non è una spesa indifferente, magari, come dire, accettano il pagamento in nero, perché non c'è dubbio. Ecco, detto questo, c'è però chi invece questa filosofia del furbo la sposa a pieno, perché dice l'unico modo con cui l'economia italiana può andare avanti. Ma è sostenibile tutto questo? No, non è sostenibile, è profondamente ingiusto. Però quando si parla di evasione fiscale, secondo me bisognerebbe fare un passaggio che va oltre i Moloch, i totem, le icone, no? I luoghi comuni. Allora, io voglio portare un esempio di queste ultime ore, forse sfuggita ai più perché non si tratta di un grandissimo eclatante caso di cronaca, riguarda la Perini Navi, no? Di Viareggio, peraltro produce yacht di altissimo livello per i VIP veri, quelli che hanno molto da spendere. Allora, vabbè, senza entrare nel merito, ci sono degli indagati, secondo le Fiamme Gialle, insomma, la Perini Navi avrebbe costituito una società fittizia in Lussemburgo allo scopo di non pagare le tasse in Italia. Allora io mi chiedo, per carità, andrà avanti questa inchiesta, affari loro, non mi interessa, ma lo fanno l'80% delle società quotate in questo paese? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, il Lussemburgo è padre fondatore dell'Europa, ma come tutti sanno, si aprono le holding, una volta erano le Soparfi, le holding del 29, adesso non ci sono più le holding del 29, ci sono altre holding, ma per quale motivo una società quotata in Italia deve avere legalmente un holding in Lussemburgo? Altro esempio, è uscito pochissimo tempo fa, ed era il contenuto di una rivista, Bilanz, è una rivista svizzera, economica, la classifica dei 300 svizzeri più importanti e soprattutto più ricchi. Allora, nella prima parte della classifica c'erano 10 italiani, cioè, ma 10 italiani eccellenti che sono residenti in Svizzera. Io vorrei immaginare che lo scenario qualche volta si allargasse e che quando si va a cercare l'evasione fiscale si va a cercare quella vera. Questo non è che voglio giustificare il mancato scontrino piuttosto che l'idraulico furbo, no, vanno puniti, ma vanno puniti anche i furbi in grande stile, quelli che veramente evadono all'ennesima potenza, oppure lo accettiamo e allora a quel punto in cambio però permetteteci anche a noi di avere delle detrazioni, delle deduzioni, cioè tutto il discorso che c'è stato sulla delega fiscale, sulla stabilità, riguardava ancora una volta la scomparsa del ceto medio, in sostanza, perché è talmente tartassato in questo paese che non sa più neanche dove girarsi. Allora, io non voglio dire che è giusto quando va dal dentista, no? Assolutamente no. Io pago fino all'ultimo euro, fiero di farlo, ma può esserci la tentazione, perché purtroppo chi dovrebbe dare l'esempio in questo paese dà un cattivo esempio. Si possono mandare ispettori e finanzieri a Cortina e Portofino, Brera, Napoli, Sardegna e Courmayeur, ma poco cambia, se li beccano da allora pagheranno, ma a Mazzetti di 50-60 evasori a botta ci vuole un millennio per prenderli, ma dai, tutti, ma certo. Altrimenti se non li beccano tutto resta come sempre, tanto guarda. Concludo, e tanto un pezzo del tuo libro, fammi finire, sì, sì. Tanto dopo la Svizzera, contro la quale tutti ci arrabbiamo, c'è il Belize che nessuno conosce ed è meglio così. e anche il Paraguay e anche Singapore, dove si trasforma tutto in azioni e li perdi per sempre. Cioè, la verità è che vediamo sempre più macchine che vanno in giro con la targa tedesca, no? Poi si è scoperto, ah beh, certo, i furbacchioni, no? Perché ti fregano con il leasing tedesco. Finito il leasing tedesco, nessuno ha raccontato che quelle targhe sono diventate austriache, della Repubblica Ceca, della Lituania. Cioè, come dire, il business, la fabbrica dell'evasione fiscale è sempre in attività, basta poter pagare. Cioè, ci sono schiere di consulenti, di avvocati che nella loro vita fanno questo. Mm-hmm. Dopodiché, se tu vai in una grande banca e ti presenti con il Rolex al polso e un milione in più e chiedi: io ho bisogno di dare una sistematina alle mie cose, ma secondo voi non vi aiutano? Belize, Paraguay, guardate che è molto più semplice di quanto sembri. L'importante è essere ricchi. Marco, noi che non lo siamo, chiaramente paghiamo. L'IMU, per esempio, ecco, di cui mi piacerebbe parlare moltissimo. Adesso però, ti faccio parlare di l'IMU. No, quello che volevo dirti è che in tutti questi tuoi libri che hai fatto, anche gli altri tre con Lorenzo, e tanto forse di evasione fiscale parlate tanto, però siccome ti sento così caldo su questo argomento, ti invito magari a pensarci per il tuo prossimo libro, no? Fare proprio un bel volume solo su questo, visto che di casi anche ne conosci tanti. So che magari è un po' più ardito, no? Cimentarsi in un terreno così delicato. Beh, comunque sono argomenti scivolosi. Rischi sempre di dire come si fa a non pagarle le tasse, no? Creando un meccanismo di emulazione che invece assolutamente nessuno vuole creare. Dopodiché, insomma, sono le leggende di il segreto di Pulcinella, che adesso vanno in Svizzera, non si va più alle banche e si va direttamente alle poste. Cioè, certo. Dai via, insomma, di che cosa stiamo parlando? Allora, chi lo deve sapere lo sa. Mirko, ma non si fa. Mirko da Milano riprende un concetto che tu hai riportato nel tuo libro a pagina 20, quindi è quasi all'inizio. Glielo faccio raccontare, poi leggo questa parte del libro, appunto, di Marco Fratini, Cotti a Puntino, questa parte che è contenuta nel capitolo iniziale: dall'arrosto di Silvio alla minestrina di Mario, ovvero con l'Italia sotto attacco si guadagna bene. Mirko da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signora. Prima di tutto la ringrazio per l'insegnamento e la formazione che voi e i suoi colleghi ci dà tutti i giorni dal punto di vista economico, insomma, soprattutto Giannino e Barizoni. Grazie. Poi le volevo dire, appunto, pensavo che il programma di oggi avesse preso una piega un po' più ironica, allora dico, cioè, interveniamo perché una risata in più, insomma, non no, no, ma adesso ce la facciamo, non si ri... però sono temi molto seri. Ma Marco, che per appassionare tutti i lettori, anche responsabilizzarli un po', ovviamente usa un linguaggio un po' più leggero, ma è molto serio il libro se lo va a leggere, Mirko, quindi insomma si possono mettere insieme comunque i due aspetti. Ci dica. No, più che altro avevo appunto visualizzato un'immagine di un piatto tipico italiano che poteva essere equiparato, insomma, alla situazione della crisi di oggi, insomma. E mi è subito venuto in mente il piatto del maialino al forno, insomma. E poteva sicuramente raffigurare al meglio, insomma, la situazione che da qualche anno, insomma, stiamo vivendo. Certo, perché no. L'Italia è stata a lungo esattamente. Ma siamo, e questo concetto, carne di porco, però, E tu lo riprendi questo concetto, sì, Marco. Mirko non ha scoperto nulla di nuovo, tu ci eri già arrivato, no? A fare questo parallelo. Assolutamente. Facciamo sempre la nostra porca figura, però comunque rimaniamo carne di porco. Certo, no, tra l'altro, Marco, inizia così: tutti sanno che il nostro paese è fatto di carne buona, rossa come la Ferrari, ma venata a quel giusto di fierezza artigiana, creatività e grasso risparmio familiare. Anche questo altro bel tema. Ci si potrebbe chiedere per quale motivo salto all'altra pagina. Almeno all'inizio non sia stata scelta altra carne, per esempio quella spagnola, ma è presto detto, era di maiale, carne di pigs. Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, i quattro suini del debito pubblico da apocalisse, i paesi vergogna. E qui poi tutto il ragionamento che Marco faceva prima, che porta alle motivazioni per cui siamo stati bombardati anche noi di vendite, perché tanti grandi investitori mondiali sono usciti dal nostro debito, adesso lo stanno ricomprando perché ci hanno messo in pentola a bollire, e ancora stiamo un po' lì, tutto sommato, Marco, no? Beh, ci hanno guadagnato moltissimo con e noi, ci hanno guadagnato bisogna dirlo, cioè è tutto partito da posti ben precisi. Io credo che la mossa che ha cambiato un po' la storia, no, della spread story, scusate il bisticcio, è stato non tanto l'arrivo di Monti, 575, ma quando Monti ha deciso di andare a Londra. Cioè, il segnale è stato quello, no? Si va a parlare con i cardinali della City. Il 18 cioè, gennaio di quest'anno, sì. Cioè, chiunque ha la capacità di una visione finanziaria sa che bisogna andare da quelli che premono il bottone. Cioè, ieri ho sentito l'intervista di Berlusconi che dice: ah sì, beh, io ho preso tutto a 4,5 i BTP quando sono arrivato, era più o meno quello era il rendimento, poi era arrivato a 6, 6,5, è arrivato all'8,5. Cioè, ricordiamoceli questi numeri perché fanno parte della nostra storia, devono farci ricordare che siamo arrivati veramente al limite e poi siamo tornati indietro. Dopodiché, chi ha visione politica, i consiglieri economici, cioè si mettano intorno quelli che ne capiscono qualcosa, no? Che non sbaglino le cifre e che dicano e che indichino la strada. Cioè, c'è un problema di spread? Si va a Londra, si va al Wall Street, non si va a fare le feste e soprattutto non si va a Cannes a dire che i ristoranti sono pieni. Si paga questo. Dopodiché, quello che accade in questo periodo, no? È di dire troppo facilmente viva Monti. Attenzione, perché poi quello che accadrà nel prossimo anno sarà qualcosa di effettivamente statisticamente evidente, pesante, e io non credo che abbia dei colpevoli, è soltanto un percorso storico che noi non abbiamo ancora abbandonato, no? Quando io cito i libri Viva l'Italia mi dà fastidio, cioè mi disturba continuamente questo voler allontanare l'obiettivo da quello che poi è la realtà. Ci sta bene, ci sta l'alleggerimento, anch'io mi sono divertito a scrivere di cucina pensando all'economia, dopodiché teniamo bene gli occhi concentrati su quello che ci sta accadendo. Io avrei voluto tanto parlare di IMU. Guarda che abbiamo ancora 20 minuti, un inciso. Allora, vai. Allora, siccome lo abbiamo pagato per salvare l'Italia, questa è una delle cose che in questi ultimi giorni pochi hanno rilevato, devo dire anche il Sole, ma aspettavo che la rilevasse un po' di più questa cosa. L'IMU è stata pagata per il Salva Italia. Ergo, doveva servire a salvare il paese, no? Per cui io ho questo concetto, no? Un po' anziano, per cui ce ne sono alcuni che hanno pagato, come dire, hanno comprato i BTP per dare loro la patria, alla fine si sono quietati pur dovendo pagare l'IMU perché, oh, vabbè, così salviamo l'Italia. Cioè, ma lo sappiamo che dal prossimo anno l'IMU torna interamente ai comuni? Cioè, noi l'abbiamo pagata per salvare il paese, invece salveremo i bilanci di Alemanno, di Pisapia... Cioè, vi va bene? Siete tutti d'accordo? È giusto che sia così? Cioè, cambiare la destinazione di una tassa pesante che si paga in corsa, io lo ritengo non democratico. Secondo te, con il possibile ricambio politico che arriverà con le elezioni Quale di febbraio, ricambio? Nel senso, allora, con la nuova compagine governativa che arriverà, che sarà formata da tutte le persone che già sappiamo, potrà esserci un cambiamento anche in questa decisione o in ogni caso è già stabilito che sarà così? Ma guarda, secondo me io non sono un grandissimo esperto di politica, sono soltanto un osservatore come te, come la maggior parte degli italiani. Quello che posso dire è che non vedo l'ora di andare a votare e che però mi sarebbe piaciuto votare con regole nuove. E tutto quello che si doveva fare era la legge elettorale, ci siamo persi per strada, l'unica possibilità di apparire un po' più democratici di quello che poi effettivamente siamo. Ne abbiamo fatto una questione di pura tecnica, quando invece è una questione essenziale di rappresentazione all'esterno di un paese che sa crescere, sa darsi nuove regole e forse l'unica riforma di cui i mercati non si interessano era la riforma che invece doveva interessare e interessa ancora gli italiani, ma è la riforma che non avremo. Dopodiché andremo a votare con le ennesime regole, con le stesse persone. A proposito di avanzi, voteremo gli avanzi politici più qualche avanguardia tecnica, ma la sostanza è che in questo paese non cambierà niente perché c'è una generazione che non ha voce, è sicuramente quella dei giovani che mandiamo in piazza come scudi umani per difendere la nostra generazione dei 40-50enni che in questo paese non hanno voce, non comandano, non comanderanno, portano acqua, non stare obiettivamente ai più anziani, è un paese per vecchi, non c'è dubbio, spero che magari venga rappresentato diversamente nel prossimo Parlamento, però c'è, come dire, la categoria anagrafica più produttiva di questo paese, che è sicuramente quella che va dai 40 ai 55, onestamente non mi sembra che sia rappresentata ai vertici. Poi ci sono dei 50 ultra cinquantenni eccellenti che sono andati alla Banca Centrale Europea, insomma, Per carità, ci sono quelle eccellenze che poi, per carità, sono tutte quasi di derivazione bancaria. Io mi aspetterei che si pescasse un po' di più anche nella società cosiddetta civile. Questo non avviene e allora tecnicamente tutto quello che ci arriva ce lo dobbiamo sorbire. Senti, tra l'altro, a proposito di ricette e titoli di Stato, tu hai preparato anche questa rosta all'italiana, pagina 23, lo leggo io. Ecco gli ingredienti per 60 milioni di abitanti. Debito pubblico, 2.000 miliardi a piacere. Tu hai messo il range, 1.900-2.000, abbiamo superato. Ma ci siamo arrivati, eh. Disoccupazione, 2 milioni e mezzo di persone, precariato come se piovesse, evasione fiscale, 150 miliardi per difetto, immagino ormai a temperatura ambiente, riforme, se trovate quelle di stagione, PIL, solo un pizzico per la improbabile duratura. Questa è la ricetta per costruire il debito pubblico italiano? E questa è la ricetta per costruire il debito pubblico italiano professionale. Sei mesi fa, noi siamo professionisti in questo, sei mesi fa, alle notizie dell'aumento del debito pubblico, noi giornalisti, no, andavamo proprio in sollucero, no? Si facevano pezzi, aperture, il debito record qui e là, la colpa, l'eredità del governo cattivo di Berlusconi, eccetera. Allora, con Monti il debito è cresciuto costantemente, l'ultima rilevazione è superiore di 14 miliardi ai 2.000, no, cifra tonda della paura, e non se l'è filata nessuno. Anzi, se noi andiamo a vedere il grafico e li mettiamo in confronto, no, l'andamento dello spread e l'andamento del debito, perché ricordiamoci che lo spread dovrebbe essere comunque un misuratore di affidabilità e quindi un termometro anche di debito pubblico continuo, no, a livello di vita quotidiana, divergono. Cioè, vuol dire che noi abbiamo acquistato credibilità, nonostante la nostra misura principale, la grande paura del mondo, il debito pubblico, motivo per cui peraltro è stato chiamato il guardiano, no, a gestirlo, continui ad andare al galoppo. Cioè, questa è la cosa che mi colpisce di più, è la cosa che francamente io non comprendo fino in fondo, ma mi va benissimo che sia così, sia chiaro, mi va benissimo, però io non la capisco fino in fondo. Allora Marco, stiamo andando verso la conclusione, ci manca un minuto, vorrei dare voce a questi ascoltatori che ci stanno scrivendo e che ci scrivono dalle aree terremotate dell'Emilia e che si ritengono trattati diversamente rispetto a quanto non sia stato fatto invece per gli aquilani in passato, nella stessa tragedia. Chiaramente qua non è che è una guerra tra poveri, ma molti ci dicono quello che ci fa ribollire di più è effettivamente che noi dovremo riprendere a presto a ripagare appunto tutte le tasse che c'erano state sospese e quindi complimenti al governo, ci scrive un ascoltatore, ma per la verità in tanti ci hanno scritto. Allora, detto questo, noi stiamo concludendo. Marco, vendiamo due palazzi, ce ne sono tanti, facci, no? Ma pure quello è un altro bel tema, il patrimonio immobiliare pubblico, ma non si riescono a vendere, chi ce le vuole le nostre case? Marco, chi le viene a comprare? D'altronde, quale altro palazzo potremmo vendere? 10 secondi di tempo. Ah, io ne venderei uno, però non si può dire. No, diccelo, dai. No, dai. Non si può dire, è molto centrale a Roma, non si può proprio dire. Vabbè, senti, c'è una bella torretta con l'orologio. Allora, Marco, auguri di buone feste, ti aspettiamo presto auguri in libreria con altri successi come questo, lo ricordo, Cotti a Puntino. E a tutti quelli che ci hanno ascoltato, in particolare agli amici, ai ragazzi delle zone terremotate, perché credo abbiano bisogno di un pizzico di solidarietà in più. Esatto. E non bisogna dimenticarsi soprattutto in grazie. Questo Marco Fratini ha scritto Cotti a Puntino, edito da Rizzoli, buon Natale a Marco e a tutti quanti e noi ritorniamo qua domani, buona giornata a tutti.